Ed eccoci finalmente in grado di effettuare questa corrispondenza. Andiamo, vediamo se il compagno ci sente. Hola, me oye? Sì, perfetto. Sì, muy bien. Che tal? Stiamo in diretto su Radio Onda Rossa. Già estuviste aquí hace algunos meses para una entrevista y ya estamos muy, muy alegres de hospedar tu voz nuevamente. Nuestra frecuencia. No, muchas gracias a ustedes también, gracias por esta llamada y naturalmente que tengo muy, muy lindos recuerdos de mi paso por allí en Radio Onda Rossa, y un saludo también para todos los compañeros que siguen esta radio que disturba, como dicen ustedes, ¿no? Esa onda que disturba. Que te acuestas tú bien, ¿no? ¿Cómo? Tú estás bien, te digo. Estoy como... Sí, estoy muy bien, sí, siempre muy bien. Diceva che anche lui è molto contento di restare su queste frequenze e che conserva dei bei ricordi di quando è venuto qui a Roma. Bene, e quindi claro. Oggi, ieri ci sono state queste elezioni, una astensione molto grande, e come valuti tu questa astensione? Come valuan los compañeros esta abstención muy grande? Mira, o sea, eso es un dato súper importante. Lo que hay que considerar de lo que ocurrió ayer en Chile, esta elección que se va a decidir en un balotaje próximo el 15 de diciembre. Sí, espera un momentico que voy a traducir. Corretto. Sì, quindi sì, quello che c'è stato ieri è stato un dato molto importante, una astensione molto grande, quindi le elezioni ci sarà poi, come dicevo prima, il ballottaggio il 15 dicembre. Claro, y la alta astensión da cuenta de principalmente del descrédito de la clase política en Chile, ¿no? E l'alta, sì, come prima cosa, l'alta astensione racconta il discredito della classe politica cilena. Claro, por una parte una derecha che sta en la administración del gobierno, en este caso Sebastián Piñera, con su candidata Evelyn Matthei, un militar golpista, ¿ya? Con quindi in un caso la classe politica di destra che è al governo con Sebastián Piñera e che presentava come sua candidata Evelyn Matthei, che è la figlia di un generale golpista. Claro, y de frente la candidata de la socialdemocracia, Michelle Bachelet, de una coalición socialdemócrata que gobernó Chile durante 20 años, una vez terminado formalmente la dictadura militar, ¿no? Sì, che quindi la dall'altra parte la candidata della socialdemocrazia Michelle Bachelet, che è stata a sua volta presidente qualche anno fa nell'ambito della Concertazione, che era questa grossa coalizione di socialdemocratici e democristiani che ha governato il paese, il Cile, fin dalla fine della dittatura nel 91 per 20 anni, fino alla vittoria di Piñera. Quedan empatadas, van a este balotaje, pero ambas candidatas, ¿ya?, de la derecha y de la socialdemocracia, Matthei y Bachelet, no representan proyectos antagónicos, son exactamente lo mismo. Exacto. El matiz que uno es de derecha y otro es de socialdemocracia. Quindi le due candidate, tutte le due parti della contesa, non rappresentano in realtà due posizioni antagoniste tra loro, ma portano avanti la stessa ricetta, sono sia la destra che la socialdemocrazia, la stessa politica. Claro, sono la classe politica nel fondo che ha amministrato este modello, ya, che ha amministrato un governo, e che in el caso della concertazione, ora questi ultimi 4 anni che hanno hecho es profundizar un sistema económico, un modelo neoliberal que en ningún caso reúne o representa o acoge las demandas populares en este caso. Sí. E quindi prima la Concertazione ha portato avanti politiche neoliberali che sono state poi approfondite durante il governo di Piñera negli ultimi 4 anni, e che politiche neoliberali che naturalmente non assumono nessuna delle rivendicazioni popolari. Claro, y eso demuestra por qué la alta abstención, un 51%, y que contradice todas las expectativas de la clase política, que esperaba una alta participación fondamentalmente de jóvenes, ¿no? Sí. E quindi questo dimostra, spiega l'alta astensione, più del 51%, che contraddice le aspettative della classe politica, che invece sperava in un'ampia partecipazione, soprattutto dei giovani. E soprattutto i giovani, perché con la iscrizione automatica del voto volontario si rinnovò il padrone elettorale in Cile a 7, quasi 8 milioni di elettori, de los cuales, ya te decía, el 51% ayer decidió no ir a votar. E con la concessione del voto volontario in Cile, quindi il 51% ha deciso di non votare, perché antes era obbligatorio votare. Era obbligatorio votare. Todos estamos inscritos, pero podemos votar voluntariamente. Esa era la primera elección con el voto voluntario. La primera elección presidencial y voto voluntario. Ah, okay, sí, de hecho, sí. La primera elección con voto voluntario, que fue las municipales del Singapur, sí, se llaman allá, la abstención fue del 64%. Ah, okay. Fue un vale de agua en la cara de la clase política. Sí. Ellos esperaban que todo el mundo fuera a votar y casi el 66% no fue a votar. Quindi dice sì, queste erano le prime elezioni presidenziali con il voto volontario, prima era obbligatorio votare, però c'erano già state delle elezioni municipali in cui l'astensione era stata addirittura del 64%, che era come un bagno d'acqua fredda per la classe politica, che pensava invece che la maggior parte delle persone andassero a votare. Non so se quieres ricostruire un poco para los escuchadores de la radio lo que representó también Michelle Bachelet en los años de su presidencia hace algunos años. Sí, mira, Michelle Bachelet es hija de un militar que fue constitucionalista, aliado de Salvador Allende durante el gobierno popular en el 70. Quindi, representa a esta coalición gobernante la Concertación, que estuvo 20 años gobernando y que ahora incorpora al Partido Comunista, sí, que ha seguido la vía electoral. Quindi ya. Michelle Bachelet, le ho chiesto, puoi spiegare un po', visto che è già stata presidente, quello che è stato negli anni della presidenza. Dice Michelle Bachelet è la figlia di un generale antigolpista, che quindi non ha appoggiato il colpo di Stato di Pinochet e che è ora candidata di questa coalizione che incorpora, oltre alla socialdemocrazia, anche il Partito Comunista. Viene come a ripetersi il plato, decimo acá, no? Volver a comer del plato, che le llamamos, le decimos acá, y naturalmente que está, a pesar de que goza un gran apoyo ciudadano, ya, fundamentalmente por el trabajo de la socialdemocracia, la democracia cristiana, el Partido Socialista, y ahora la izquierda tradicional que encarna el Partido Comunista Chileno, pero hay un montón de cuestionamientos a lo que significó su gobierno, ¿ya? Fundamentalmente tiene que ver con la relación con el mundo social, con los estudiantes, por ejemplo, con los pobladores y en materia de derechos humanos. Sí. Quindi, nonostante tutta questa larga coalizione che appoggia Bachelet, il suo governo è stato caratterizzato da cattivi rapporti sia con i movimenti studentesco che quello con i movimenti di cittadini e per le questioni dei diritti umani, perché in Cile hai graves problemas de violaciones de derechos humanos en relación sobre todo con los mapuches. Exacto. Por ejemplo, a Michelle Bachelet se le enrostra desde el mundo popular, desde la izquierda revolucionaria, el hecho de que nunca asumió la responsabilidad política, siendo jefa de Estado, en el asesinato de jóvenes mapuches, que fueron dos durante su periodo de gobierno, por ejemplo. Sí, que Bachelet es colpevole della morte di due giovani mapuche che sono stati uccisi durante il suo governo da por l'esercito, la polizia, mi immagino, fueron matados. Sí. Entonces muchas de las cosas que ella no realizó durante su gobierno las promete ahora para un nuevo periodo de gobierno. sea, allí la falta de fidelidad también de creerse, es decir, ¿cómo? Si no hizo lo que tenía que hacer cuando debió hacerlo, sí. Ahora la esperanza o la expectativa de que lo haga para el mundo popular es el doble de difícil, ¿no? Sì. Quindi lei promette di realizzare ora le cose che non ha realizzato durante il suo governo, ma in realtà se non l'ha fatto a suo tempo, quindi il Movimento Popolare non punta naturalmente su una candidata di cui già conosce quali sono le politiche, anche questo spiega il suo rifiuto di andarla a votare. Fondamentalmente perché la concertazione que gobernó durante 20 años y también la derecha, que es la derecha de Pinochet, aunque no lo quieran, no representan para el pueblo chileno la posibilidad real de un cambio. E la concertazione, che è questa coalizione che ha governato il Cile per 20 anni, né la destra, che poi è la destra pinochettista della dittatura che ha governato negli ultimi 4 anni con Sebastián Piñera, non rappresentano per i movimenti popolari un cambiamento. E perché nel fondo no, vale ma hable sì, no, lo che io trato di plantear y que puede considerar quien escucha el radio de los a los compañeros, un saludo para todos ellos, es el hecho de que nada cambió, es decir, los gobiernos civiles que continuó haciendo la concertación estos últimos 4 años, la derecha con Sebastián Piñera, después del término formal de la dictadura, no significaron cambiar absolutamente nada. Uh-huh. Fue al contrario, profundizar lo que Pinochet estableció como el modelo económico, la falta de derechos sociales, la vivienda, l'educazione, la salud, eccetera. Dice quello che gli preme di far notare a tutti gli ascoltatori, di far capire che questi governi della concertazione negli anni successivi alla dittatura, per questi 20 anni, dagli anni 90 agli anni 2000, quello che hanno fatto è stato approfondire quello che ha fatto Pinochet dal punto di vista economico, delle politiche sociali, della repressione, e quindi che c'è una totale continuità, anzi un peggioramento del... Leí antes que la desigualdad aumentó en los años de la, digamos, democracia, que empeoró la distribución del... absolutamente, se profundizaron todo, o sea, el primer gobierno civil después fue el gobierno que... puso la atención en todo lo que era materia de derechos humanos, pero de manera tímida, ¿no? Sí. La justicia en la medida de lo posible. Sí, el primo gobierno civil dopo Pinochet, quello que affrontò gli indici dei diritti umani, ma che lo fece in maniera debole, poi non si affrontò più questa questione. Y desde el punto de vista del Movimiento Popular, en estos meses, ¿qué se está desarrollando en Chile? Mira, en el último tiempo, en lo que fue la campaña electoral, nos enfrentamos a dos coaliciones, la derecha y la concertación, pero también un sinnúmero de candidatos, 9 candidatos, que venían del mundo de la socialdemocracia, de la izquierda tradicional, ya, que comenzaron en algún las demandas populares, ya, como promesas de campaña. Sí. Por ejemplo, la educación gratuita. Quindi in questi mesi di propaganda elettorale si sono confrontati con tanti candidati che venivano dall'area della socialdemocrazia o da posizioni più di sinistra, che facevano proprie in maniera naturalmente propagandistica le rivendicazioni del Movimento Popolare, come quello dell'educazione pubblica. Y entonces eso al mundo popular, al pueblo chileno le resulta divertido, o sea, es irrisorio, por ejemplo, escuchar a Michelle Bachelet hablando de educación gratuita y de calidad cuando durante su gobierno no fue capaz de promover reformas reales, cambios reales, estructurales, para que la educación fuera gratuita, pública y de calidad, que es lo que han demandado los estudiantes los últimos 5 años. Sí. Siriani. E quindi al pubblico, alla popolazione cilena faceva ridere che Bachelet parlava di educazione gratuita, educazione pubblica durante la campagna elettorale, quando in realtà negli anni in cui è stata presidentessa non ha risposto a queste rivendicazioni che provenivano dal movimento studentesco che in Cile è forte da più di 5 anni. Entonces, el mundo popular está enfrentado a esta clase política que promueve la posibilidad de cambios vía elecciones, vía el voto, sobre la base de una constitución política que fue diseñada por Pinochet y que no ha variado en nada. Es decir, es la misma constitución que aplica las leyes antiterroristas a los mapuches, a los luchadores sociales, es la misma constitución que valía la represión social, el no derecho a huelga de los trabajadores, o la imposibilidad de manifestarse en las calles, por ejemplo. Quindi il movimento popolare si deve confrontare con una contesa elettorale, che una via elettorale alla trasformazione, che poi è quella che avviene nel quadro di una costituzione, che è la costituzione fatta da Pinochet, è la stessa costituzione che prevede la legge antiterrorista utilizzata nei confronti dei Mapuche, che prevede tutte le normative antisciopero contro il movimento dei lavoratori, che mette in campo la repressione delle manifestazioni in strada. Per chi non votiamo o non partecipiamo del processo elettorale, sta soprattutto ese principio, es decir, el hecho de votar significa validar una constitución fascista, la constitución de Pinochet, la que significó el exilio, la tortura, la prisión política, la desaparición de personas. Quindi la posizione politica del Movimento Popolare è stata quella di dire: noi non andiamo a votare, noi ci asteniamo, perché votare sarebbe riconoscere la validità della Costituzione di Pinochet, legittimare la tortura, la repressione, tutte le forme di violenza che vengono messe in campo da parte dello Stato contro lo stesso Movimento Popolare. Ahora también hay que reconocer de que hay un porcentaje importante de nuestro pueblo que cree en la vía electoral, que cree en la posibilidad del voto, y que es justamente la que se traga o sigue a todos estos candidatos de los que te hablaba, que aparecieron como de la socialdemocracia, independiente, algunos como del mundo popular también, candidaturas testimoniales, por cierto, pero que no terminan de convencerse de que los cambios no van por allí, ¿ya? E c'è una parte comunque che ha a che fare col Movimento Popolare, che invece non si è ancora convinta che la via elettorale sia quella sbagliata, e che è quindi ricettiva nei confronti dei messaggi lanciati da parte di questi candidati più di sinistra, e pensa ancora che loro possano portare a quella trasformazione che invece viene rivendicata come Movimento Popolare. Il processo elettorale, digamos, non decò spazio alla lucha in esos meses, o siguen las marchas? De todas maneras, las luchas sociales se mantuvieron durante estos meses de campaña. Han bajado un poquito de intensidad, eso es cierto, particularmente los estudiantes, que están preparando un nuevo proceso de movilizaciones para el año siguiente. Y también porque los procesos electorales también empañan un poco la importancia real que tiene, por ejemplo, de mandar salud, educación, vivienda, derecho al trabajo, etcétera, ¿no? Sí, sí. Quindi sì, un po' sono diminuiti di intensità, ma stanno comunque continuando andando avanti, soprattutto per quanto riguarda le mobilitazioni studentesche, che sono in programma di ripartire per l'anno prossimo. Ricordiamo che naturalmente in Cile, essendo dall'altra parte del mondo, ora ci troviamo più o meno in estate, quindi immagino che ci sia la pausa estiva per gli istituti scolastici e le università, e comunque restano in piedi tutte le altre lotte per la salute, per il diritto alla casa, che invece naturalmente stanno continuando. Entonces, lo que hizo esta campaña electoral fue empañar un poco, diría yo, ensuciar un poco también lo que hay allí en el seno del mundo popular. No obstante que, de cualquier modo, hubo muchas huelgas, huelgas de trabajadores, manifestaciones, el conflicto, la lucha que dan los hermanos mapuche en el sur, que este año asesinaron nuevamente a otro joven mapuche. La madre de un joven mapuche asesinado fue golpeada el otro día por la seguridad del equipo de seguridad de Bachelet en una manifestación de cierre de campaña electoral. Es decir, pese a esa nebulosa que significó la campaña, las luchas sociales siempre están presentes, solo que desaparecen a nivel mediático, tal vez, sí, porque la vorágine de la campaña electoral es fortissima, ¿no? Quindi dice, nonostante quegli scioperi, le manifestazioni, la lotta dei mapuchi siano continuate, non appaiono a livello mediatico, perché a livello mediatico le elezioni polarizzano l'attenzione rispetto ai mapuche. Ricordava che quest'anno è stato ucciso un altro giovane mapuche, che c'è stato un episodio che ha riguardato la madre di questo giovane, che in occasione di un atto di denuncia di questa uccisione è stata picchiata dalla sicurezza della candidata presidenziale Michelle Bachelet. Y no sé si se quieres añadir las últimas cosas, porque estamos llegando al final de la entrevista. Sí, bueno, sí. Mira, como te decía al principio, el escenario del resultado de ayer, este balotaje que viene, 46% para Bachelet, 25.01 para Matei, es el balotaje el 15 de diciembre, pero el escenario era esperado. Es muy probable que gane Bachelet. Y la apuesta desde el mundo popular es que es la necesidad de continuar profundizando las luchas, las luchas sociales, de seguir confrontando un modelo y a una clase política que se empeña en hacernos creer que las cosas van a cambiar por esa vía, y para nosotros no es así. O sea, cambiar una constitución fascista requiere de un esfuerzo importantísimo del mundo popular en las peleas de los trabajadores, de los estudiantes, de las pobladoras, de los mapuches en el sur, de los jóvenes pobladores, etcétera, de la mujer. Sí. E quindi, insomma, lo scenario è questo: ci saranno queste elezioni, questo ballottaggio il 15 dicembre. Il Movimento Popolare però continua a non confidare per la sua gran parte nello strumento elettorale. C'è la necessità di cambiare questa costituzione fascista, e questo può avvenire solo attraverso le lotte che vanno approfondite da parte di tutti i settori della società cilena, dagli operai ai mapuche, alle donne, agli studenti e a tutte le altre componenti della società cilena. Bueno, yo te digo muchas gracias, espero nos vamos a hablar otra vez pronto sobre lo que pasa en Chile. Esperamos que hablaremos no de elecciones, sino de movilizaciones populares. Perfecto, yo siempre dispuesto a conversar con usted. Les doy un abrazo a la distancia a todos ustedes allí, a los amigos que hice, a los compañeros que escuchan Radio Onda 12, también al compañero de Brecha, que sé que algunos iban a estar oyendo. Y como te digo, o sea, disponible para conversar de otros temas. Y seguramente no van a ser este circo de las elecciones con sus payasos de siempre, sino que sobre la importancia que tienen las luchas de nuestros pueblos, que por lo que he seguido en Italia también está bastante interesante. Así que un abrazo para todos ustedes y gracias por este contacto. Muchas gracias. Hasta pronto, compañero. Hasta pronto, que esté muy bien. Chao, chao, gracias. Chao. Un abrazo grande. E quindi il compagno ci salutava nuovamente, dice che segue anche, che ci sentiremo quando non ci sarà magari questo circo elettorale, ma quando ci saranno delle belle mobilitazioni anche in Cile. Dice che sta seguendo con attenzione quelle che avvengono qui da noi. Io a questo punto, prima di lasciare i microfoni in patto, vi ricordo che questo mercoledì ci sarà una nuova mobilitazione contro il vertice Letta-Hollande qui a Roma, vertice in cui si discuterà della TAV, si discuterà della Polizia Europea e di tante altre cose. Noi scenderemo in piazza anche quel giorno e insomma a questo punto non mi resta che salutarvi. Vi ricordo che metteremo questa intervista sul nostro sito internet.